Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ecco. Oh, allora Kappa, oggi la notizia è stop ai nomi stupidi ai bambini. La notizia è stop? Sì, stop. Non lo dice Alfonso Signorini, che è il master eleganziarum dei nostri tempi, ma lo dice Papa Benedetto XVI. Vabbè, allora si sta a sentire. Esatto. Basta nomi strani, basta Gaia, basta Gioia, basta Gea, basta Giada. Asia? Peggio che mai. Insomma, sono nomi che non stanno nel calendario cristiano, dei santi cristiani, quindi non vanno bene. Chiaro? Però si rischia oggi a chiamarsi con nomi troppo cristiani. Drago. Troppo cristiani. Drago, c'è la caccia ai cristiani. Lo so. In giro per il mondo non si fa altro che cacciare i cristiani. Ebbene. Forse è meglio confondere le acque, insomma, trovare quindi dei nomi diversi. Sì, chiamare il figlio Mohamed, così almeno non lo fanno saltare in aria. Magari dai, Ridge. Sì, Ridge, ma dai. Mohamed sarebbe una cosa però che potrebbe funzionare. È troppo, dai, troppo, dai, è troppo. Scusa. È come gli ebrei, al tempo del nazismo erano marchiati dai nomi. Sì. Jacob, Abraham. Si chiamavano così, si sapeva che erano ebrei. Bisogna imparare dall'esperienza, quindi il Papa dovrebbe stare attento a dire certe cose. Breve storia dei nomi allucinanti dati ai bambini, così almeno ci facciamo un'idea. No? Prima della televisione i nomi normali erano Piero, Mario, Carlo, Giovanni, Giuseppe. Giuseppe, sì. Insomma, quei nomi lì. Sì. Per fargli strani i genitori potevano tirar fuori i nomi dei nonni, e allora ecco i vari Amintore, Amilcare, Benigno, Modesto, Tarcisio, Giacinto, tutti i nomi in retaggio dell'Ottocento, da romanzi dell'Ottocento. Sì, e tra l'altro però nomi cristiani, assolutamente. Certo. Ognuno col suo santo in paradiso. Ah, beh, certo. Con gli anni 70 però si assistette a questa deriva verso i nomi televisivi. Sì. Alcuni chiamarono il figlio Sandokan, altri la figlia Pamela o Sue Ellen. Esistono ancora adesso decine e decine di Sue Ellen nate in piena moda di Dallas che si fanno chiamare, che so, Anna, Simona, però sull'anagrafe, insomma, il marchio di infamia resiste, si chiamano Sue Ellen. Quindi evitate di chiamare vostra figlia Rihanna, perché tra 30 anni potreste avere una figlia traumatizzata. Sì, però noi siamo a posto, dai, tu ti chiami Marco, era addirittura un evangelista. Vabbè, Marco, io Gaetano, San Gaetano, Drago, San Gaetano da Tiene, detto il santo della provvidenza. Ah, santo della provvidenza, mai sentito nominare. Pensa che un giorno San Gaetano andò in estasi e disse perfino di aver assistito al parto della Vergine. Ma però, cioè, lui bella era lì, estasi, capito? Lì, niente spinga, meno. Spinga, spinga. Esatto, il parto della Vergine, uno dei misteri più insondabili del cristianesimo. Una Vergine che dà al mondo un bambino. Tutti si chiedono come avrà fatto, come sarà andata in sala parto. No, ma non è quella la domanda, la domanda è sulla concezione. Ma vabbè, ma anche insomma, comunque sulla sala parto l'esperto è San Gaetano. Cioè, lui sa tutto della placenta, chi ha tagliato il cordone ombelicale, quindi se ha detto messo tutte via queste robe qui. Cellule staminali, tutto. Tutto fatto. Quindi lui sa tutto. Lui sa tutto, però non l'ha mai raccontato nei dettagli. Cioè, si suppone che. Pensa che adesso l'estasi la raggiunge quasi più nessuno, perché il mondo si è secolarizzato, si è disincantato, esiste soltanto quello che tu puoi ricevere come allegato sul tuo iPad. Questo è il paradigma, hai capito? Qual è iPad? Tu non ce l'hai l'iPad? Sì, però bisogna dire iPad almeno una volta, sennò chiudono il programma. Sono parole feticcio. Generazione iPad, soprattutto anche generazione. Generazione iPad, generazione iPad. Dillo più volte, perché è importante dire iPad. Perché tanto l'estasi da iPad non c'è. No, però qualcuno che va ancora in estasi c'è. C'è ancora una sacca di paganesimo sciamano che si avvicina molto all'estasi mistica di santi come Gaetano da Tiene. Ah, sì. Ci sono ancora persone in questo mondo che sanno rapportarsi a un universo a noi invisibile, ma in tutto e per tutto esistente. Ma cosa stai dicendo? Una di queste persone è l'onorevole Di Pietro, che è in grado di tarantolarsi e perdere il controllo in danze irrefrenabili per poi tornare indietro più saggio e più umano. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. E quanto è contagioso il gioco dell'asino di Buridano. Vado con queste e vado con adesso ghiste. Basta, Vadi con ghist. Dobbiamo continuare. Vado con questo. Con chiedo asilo, capo. Dai, devi starantolarti immediatamente. Vedi, è strano perché adesso sto parlando proprio con un accento del sud assolutamente che non è realistico. Tuo. E non è tuo, quindi vuol dire che sei tarantolato. Vado con ghiste. Vado con ghiste. Va bene, allora adesso sono starantolato. Oh, starantolati perché abbiamo una bella notizia. Nelle scuole elementari di Agropoli, in provincia di Salerno, i bambini sono saliti finalmente in cattedra e hanno avuto l'occasione di interrogare gli adulti. Era ora. Il riscatto è vicino. Bambini di tutto il mondo, unitevi. Ma cosa smetti, dai, hai più di 40 anni ormai. Non sentirti chiamato in causa ogni volta che si parla di bambini. Vabbè, parliamo quando i bambini degli altri possono bambini. Mettere in difficoltà gli adulti con delle domande scomode, bisogna stare dalla loro parte, Drago. È il momento di riscattarsi. Ed è esattamente proprio quello che è successo, no? Ad Agropoli, dove tutti i bambini delle elementari hanno potuto rivolgere domande sulla raccolta differenziata dei rifiuti agli adulti. In ogni classe delle elementari, qualche giorno fa, i bambini chiedevano e gli insegnanti e i genitori rispondevano come sapevano. Sembra che i bambini, alla fine dell'interrogazione, ne sapessero molto meno di quanto ne sapevano prima. Avrei voluto vedere te. Vabbè, proprio io ne so pochissimo di raccolta differenziata. Io cerco di fare il mio meglio, però c'ho ancora dei dubbi enormi. Ma che dubbi? Non so, il tetrapack cos'è? Carta o plastica? Il polistirolo, dove lo metto? È tipo una lampadina? E le lattine? Io non so manco dove mettere le lattine. Allora, in ordine, il tetrapack è carta. Sì. Il polistirolo va nella plastica. Okay, vabbè. La lampadina va nel sacco dell'indifferenziato perché non è vetro, solo vetro. C'è anche. Quindi lo butti lì. Se però è di quelle a risparmio energetico, devi andare in discarica. Ma come? Con una lampadina. Una lampadina va in discarica. Sì, perché contengono mercurio, hai capito? Le lattine vanno nelle lattine. Vanno nelle lattine, è facile da dirsi. Da me non c'è il bidone per le lattine, non esiste. E allora esiste nella plastica. Nella plastica. L'alluminio fonde a temperatura più alta della plastica, quindi si separano facilmente, capito? Complimenti, Cap, sei proprio tutto. Me l'hanno fatto capire, a forza di multe. Multe, perché quando passano a raccogliere la spazzatura, controllano anche che non ci sia vetro o plastica nel secco indifferenziato, capito? Se sentono che dentro c'è una bottiglia, tac, multa. A Napoli invece non è così. No, lì la multa non te la fanno. Lì la multa te la fanno se provi a fare la differenziata. Arriva una squadra di precari errati di bastoni, ti fa passare la voglia. Vabbè, perché a Napoli il gesto di buttare via qualcosa ha una valenza diversa rispetto al resto del mondo. Sai che comincio a vederci qualcosa di positivo nei mucchi di spazzatura lasciati lì in bella vista nelle strade di Napoli? E per farlo originare a tutti i costi, bene. Però se parli sul serio devi argomentare. Io argomento, non c'è problema. Allora, pensaci un attimo. Se per errore butti via, che ne so, la ricetta del medico. Non è come qui a Milano che dopo mezz'ora è già in scarica e quindi è irrecuperabile. A Napoli puoi andare tranquillamente a riprendere il tuo sacchetto, che lì lo vedi, quello blu, quello azzurro, però con la scrittina, e riprendi la ricetta. Sì, però non è che questo giustifichi l'orrore della spazzatura per le strade da sei mesi. Ma pensa a quelle madri che minacciano ai figli che non studiano, ti butto via il videogioco. Poi lo buttano via veramente, però siccome è costato un sacco di soldi, fanno sempre in tempo a riprenderlo, capito? Certo. Magari a regalarlo al fratello più... Quindi è una buona cosa questa dell'emergenza rifiuti. Certo. Anche qui ogni tanto se lasciassero i rifiuti a disposizione. Ma no, dai, no. Guarda che magari tante tragedie familiari verrebbero evitate. Quante tragedie familiari sarebbero evitate? Tragedie familiari. E si eviterebbero ancora, anche tu, Drago. Lo c'entro io. Come no? Quando perdi, cosa? Quella roba marrone lì casca sotto il letto. Ma che poi lo trova tua mamma, lo butta via, che non sa cos'è. Questa roba qua la butta via. E tu dici: mamma, non è che per caso hai trovato. Sì, avevo lasciato del. Castagnola, quella roba lì. Lei dice: l'ho buttato. Come l'hai buttato? No, una volta era una disperazione. Invece adesso potresti scendere in strada. A Napoli scendi in strada, vedi il sacchetto azzurro con la scrittina e vai lì, te lo ravani e lo tiri fuori. Però effettivamente. Meglio, no? E ora, bambini, e tutti a casa. 83, 84, 85. Adesso cosa fai? Conto le macchine che passano. 88, 89, 90. E perché le conti? Perché mi dà soddisfazione, capo. Contare le macchine. Sì, per poi dire agli amici: oggi sono passate 616 macchine, nessuna si è fermata a farmi attraversare. Poi loro mi danno la loro solidarietà e io sono contento. Belli amici. 89, 90. Quando ero arrivata? 110, 111. 112. Se mi lasciassi 130. Parcheggiare qui vicino, Drago, eviteremmo questo psicodramma dell'attraversamento della tangenziale. Questa storia del parcheggio: 118, 119. Ne hai saltata una. Impossibile, 120. Un'altra. Ma no, ma vuoi contare tu al posto mio? No, non sono mica pazzo. 126, 127, 128, 129. No, ce ne sono state due, ne sono passate due. 133, 134. La rossa e la bianca, dai, 129, no, 130, no? Ne hai saltata una tu. Io, tu l'hai saltata. 146, 147. Stagnola. E mandate i vostri cosa? Nanana, drago, sei senza fantasia. La carta, troppa carta stagnola. Secondo me, troppa carta stagnola. Chiedo asilo.